l'identificazione piena con ogni singolo filo di erba o nuvola rafforza anziché svilire la facoltà di essere diventati umani e di valutare tutti gli aspetti di questo nostro tempo che non può solo essere considerato storico. Ma ringrazio la storia per essersi rivelata senza farmi male. Appoggiato alla propria balaustra con la barba e i capelli incrostati da quella salsedine che sale sopra, da quelle onde che si infrangono negli scogli posti alla base di quel faro che una volta illuminato gli permettono di poter far fruire il suo sguardo nel buio dell'orizzonte del mare illuminato a tratti. Out of the Shell si immerge nei propri pensieri come una bestia in tana cantando canzoni da canto l'isolamento. disturba la fame negli ultimi minuti scanditi dalle ossa. La casa pericolosa, la città vuota di uomini e piena. Io sono una debolezza del passato, nessuno parla dietro me. La mia razza si assottiglia, nessuno parla dietro me. Di vita, ma ci vuole la vita per amare la vita. Out of the Shell è un delirio indipendente di intervento sociale. Out of the Shell è un delirio perché è così, perché vede se stessa come qualcosa che non ha senso. Non ha senso parlare, non ha senso esistere. Per cui nel momento in cui decide di esprimersi, allora vede la sua espressione, quella che è parte di una metabolizzazione globale della propria esistenza, del proprio modo di essere, come un delirio. Perché fa della sua esistenza un qualcosa di indipendente, fa di se stessa ciò che è il non essere parte di un sistema che non accetta, che non potrebbe mai accettare e che comunque con molto sacrificio, con molta lotta fa sì che il tutto vada avanti. Considera la propria esistenza come parte insignificante di un grande equilibrio cosmico e la propria esistenza come una forma insignificante dello stesso. E immaginate tutto questo come un grande deserto o come un oceano. Allora, Out of the Shell è un pianto che si perde nell'oceano o un piccolo granello di sabbia da cercare nel deserto, e questo lo fa un intervento sociale. Un contenitore che si chiama transizione di fase, che potrebbe essere rapportato a una dimensione radiofonica, ma nello stesso tempo è solo esclusivamente un modo di esprimersi. Un modo di esprimersi strano, in cui non si fa con attraverso scritti, immagini, si fa con tutta una globalità. Ogni blog ha il suo canale di comunicazione e di espressione, per il resto lascia questo contenitore di esprimersi musicalmente. Chiaramente ci ascoltate solo attraverso il web, attraverso internet, quindi non dovrei nemmeno dirvi come ci state ascoltando. Però le vecchie i vecchi modi e i trascorsi radiofonici fanno sì che tutto questo deve essere espresso. E allora www.transizionifas.org è il grande contenitore, www.ots.it e www.outoftheshell.it è la dimensione in cui entrate e interagite con Out of the Shell. Poi se volete interagire con Out of the Shell, allora dovete farlo in due modi. Uno è un modo mediato ed è mandare le vostre email a un indirizzo che è ots@libero.it. Poi se volete comunicare in tempo reale nel momento in cui voi ascoltate ogni cosa che viene detta, allora dovete avere il coraggio di interagire con un orso. Dovete usare qualsiasi forma di interazione MSN. L'indirizzo con cui dovete comunicare è car@hotmail.it. Chiaramente car si scrive car@. hotmail.it. Radio transizione di fase, radio transizione di fase, radio transizione di fase. Questa è la radio che ascolti nella tua città, in ogni luogo lei ti accompagnerà. Se tu lo dirai alla gente, di più. È la tua radio e non vive di pubblicità. Ad ogni orario trasmette la realtà. Transizione di fase dal sud. Senti, non è la radio commerciale con le hit parade o con le solite voci di quei DJ. Radio ribelle spinge contro informazione, la censura non fa i tagli come Miracle Play. Dal sud al nord ovunque resta connesso, la guerriglia passa dalla rete adesso. È così che qui noi facciamo resistenza, radio transizione di fase contro tendenza. Yo, Calafro Sound e radio transizione di fase, guerriglia in strada nell'etere in rete. Sin ha, straight from Calabria, you know? Camina! Thank you. licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento. Mentre fra gli altri nudi io striscio verso un fuoco che illumina i fantasmi di questo sceno gioco, come potrò dire a mia madre che ho paura? Chi mi riparlerà di domani luminosi, dove i muti canteranno e taceranno i noiosi, quando riascolterò il vento tra le foglie sussurrare i silenzi che la sera raccoglie. Io che non vedo più che folletti di vetro che mi spiano davanti, che mi ridono dietro, come potrò dire a mia madre che ho paura? Perché non hanno fatto delle grandi pattumiere per i giorni già usati, per queste ed altre sere, e chi sarà mai il buttafuori del sole, chi lo spinge ogni giorno sulla scena alle prime ore? E soprattutto chi e perché mi ha messo al mondo, dove vivo la mia morte con un anticipo tremendo, come potrò dire a mia madre che ho paura? Quando scadrà l'affitto di questo corpo idiota, allora avrò il mio premio come una buona nota. Mi citeranno di monito a chi crede sia bello giocherellare a palla con il proprio cervello, cercando di lanciarlo oltre il confine stabilito che qualcuno ha tracciato ai bordi dell'infinito. Come potrò dire a mia madre che ho paura? Che m'ascolti, insegnami un alfabeto che sia differente da quello della mia vigliaccheria. Giunta la libertà, R s'accorse a un tratto che la sua libertà era morta, che era solo, che il mondo lo lasciava paurosamente in pace, che gli uomini non lo riguardavano più, né lui riguardava se stesso, che soffocava lentamente in un'aria sempre più rarefatta, senza relazioni, senza compagnia. Infatti era arrivato al punto che la solitudine e l'indipendenza non erano più un'aspirazione, una meta, bensì la sua sorte, la sua condanna. E una volta pronunciata la formula magica, senza poterla più ritirare, a nulla gli serviva tendere le braccia con desiderio e buona volontà ed essere disposto a cercare legami e comunioni. Tutti lo lasciavano solo. Arcobaleni d'altri mondi hanno colori che non so, lungo i ruscelli d'altri mondi nascono fiori che non ho. Non che fosse odioso o antipatico alla gente, al contrario, aveva moltissimi amici. Molti gli volevano bene, ma quella che incontrava era soltanto simpatia amichevole. Lo invitavano, gli facevano regali, gli scrivevano lettere garbate, ma nessuno gli si accostava, nessuno si legava a lui, nessuno aveva voglia o la capacità di condividere la sua vita. Vento era un mago, la rugiada una dea, nel bosco incantato di ogni tua idea, nel bosco incantato di ogni tua idea. Adesso era circondato dall'aria dei solitari, da un'atmosfera tranquilla, dall'incapacità di rapporti col mondo che gli scivolava via. E contro questo stato di cose nulla potevano la volontà e la nostalgia. Questo era uno dei tratti più caratteristici della sua vita. Ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Coprì le tue spalle d'argento e di lana, di perle smeraldi intrecciò una collana. Eri come il lupo della steppa aveva un'altra natura e gli faceva parte della categoria dei suicidi. A questo punto dobbiamo osservare, errato definire suicidi solamente coloro che si uccidono davvero. Tra questi ci sono anzi molti che diventano suicidi quasi per caso. Il suicidio non fa necessariamente parte della loro natura. Tra gli uomini senza personalità, senza importanza marcata, senza un forte destino, tra gli uomini da dozzina e da branco, ce ne sono parecchi che commettono suicidio senza per questo appartenere per carattere al tipo dei suicidi. Mentre viceversa moltissimi di coloro che vanno annoverati per natura fra i suicidi, anche forse la maggior parte, effettivamente non attentano alla propria vita. Sopra le tombe d'altri mondi nascono fiori che non so, ma fra i capelli d'altri amori muoiono fiori che non ho. Il suicida. Harry era uno di questi. Non occorre che abbia uno stretto rapporto con la morte. Lo si può avere anche senza essere suicidi. Ma il suicida ha questo di caratteristico. Egli sente il suo io, indifferente a sé, indifferente se ha ragione o ha torto, come un germe della natura particolarmente pericoloso, ambiguo e minacciato, si reputa sempre molto esposto e in pericolo, come stesse sopra una punta di roccia sottilissima dove basta una piccola spinta esterna o una minima debolezza interna per farlo precipitare nel vuoto. Nascono fiori che non so, ma fra i capelli d'altri amori muoiono fiori che non ho. Questa sorta di uomini si può dire che il suicidio è per loro la qualità di morte più probabile, per loro, meno nella loro immaginazione, perlomeno nella loro immaginazione. La premessa di questo stato d'animo, che appare tale fin dalla giovinezza e accompagna costoro per tutta la vita, non è già una deficienza di energie vitali, ma al contrario. Fra i suicidi si possono incontrare nature straordinariamente tenaci, bramose e perfino ardite, ma come esistono complessioni che nelle più lievi malattie tendono alla febbre, così coloro che chiamano suicidi e sono sempre molto sensibili hanno la tendenza alla minima scossa a darsi intensamente vita all'idea del suicidio. Se possedessimo una scienza coraggiosa con la responsabilità di occuparsi dell'uomo invece che del meccanismo di fenomeni vitali, se avessimo, diciamo, un'antropologia, una psicologia, questi fatti sarebbero noti a tutti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La la la la la la. Ciò che abbiamo detto dei suicidi riguarda, ben inteso, soltanto la superficie e psicologia, vale a dire un settore della fisica. Dal punto di vista metafisico la faccenda è diversa e assai più limpida, perché qui i suicidi sono affetti dalla colpa dell'individuazione, sono quelle anime che non considerano scopo della vita il perfezionamento, lo sviluppo di se stesse, bensì il dissolvimento, il ritorno alla madre, il ritorno a Dio, il ritorno al tutto. Stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. La la la la la la. Tra costoro moltissimi sono assolutamente incapaci di commettere realmente il suicidio, perché lo considerano peccato, ma per noi sono pur sempre suicidi, perché vedono la redenzione nella morte invece che nella vita, e sono pronti a buttarsi via, ad abbandonarsi, a spegnersi e a ritornare all'inizio. Ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria. Coltiviamo per tutti un rancore che ha l'odore del sangue rappreso. Ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. Un di caine, un di spine, un di arbai. chiaramente giuro che se sino a quando non sono arrivato a casa avevo deciso di partire così, e che pensavo alla giornata un po' come fa normalmente Autodiscella, no? Quando decidi di partire, dice torna a casa, deve andare in onda, deve dire delle cose, ha il suo stato d'animo, dice come cavolo lo spiego. Devo dire che oggi c'è stata una frase che ho sentito che mi ha colpito tantissimo, e fa parte di un'interazione generazionale, quell'interazione generazionale che forse tutti quanti, me per primo, cerca di comprendere nel momento stesso in cui entra in relazione. Non so se è vero, è possibile che diverse generazioni possono entrare in contatto e comunicare. Io praticamente lo faccio da 30 anni e sinceramente cerco sempre di scoprire. Ma il testo che ho appena letto è un testo che è stato fondamentale nell'esistenza stessa di questo elemento che è Out of the Shell. Lo è stato perché fa parte della sua natura, fa parte del suo percorso, fa parte delle cose che in cui crede, fa parte di quel momento di distruzione che continuamente vede, ma che continuamente, pur non rappresentandolo, gli viene contestato. We'll be right back. appunto un coglione con la vo. Se ti difende il governo c'era una vo, ma non mi capita più. Ora capaci, non va a contare se giusto le piaci. Se pagare in dura pane la placi, per anni resti Gesù. Un aeroplano che la voce risuoni. capito niente, per poi incontrare strano il mio sorriso e chiamarlo amore. L'opportunità di leggere il post di oggi e vedere anche le immagini scelte del post di oggi, saprà che la parte centrale è dedicata ai sentimenti. Dopo tanti giorni che sono stato zitto, non ho voluto parlare proprio per primo perché ero impegnato, quantomeno sabato. Venerdì vi ho messo in rete la trasmissione preparata per ascoltarla e con notevole ritardo. Per il resto era semplicemente una questione mia, ma che stranamente a un certo punto è diventata una cosa collettiva. Collettiva non nel senso generale di popolo, ma di una ristretta cerchia di persone. Dove io mi trovavo a dover spiegare e raccontare, cioè, quella che è la mia vita quotidiana, quello che significa che se a un certo punto stai andando in onda e ti chiamano e ti dicono: cazzo, vedi, hanno arrestato questo, arriva subito, e vai là e ti stai 48 ore senza mai dormire e starti là con forse se rapportiamo che potrei essere il padre di tutti quelli con cui ho interagito, sono almeno 3 generazioni dopo di me, e stai là ti trovi di fronte a un confronto comunicativo per 48 ore. Poi cerchi di avere il rapporto con chi invece può analizzare tutto quello che in un modo o nell'altro è parte della tua analisi e non lo puoi fare. E allora a quel punto ti chiedi: ne vale la pena? Non so l'1%, ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscano? sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Babo babo dai, dai, non ti non ti non dai. Dado dado dai, dai, non ti non ti non dai. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco o di origine oscura. Non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti come indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo e per niente. Hanno gettato testardi la vita alla malora, hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono. E se dai calci in culo c'è da incominciare. Chi è che scende per strada non lo dimenticare. Sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza. Coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono. Stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi, li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici. Sono gli anarchici. Transizione di fase, una radio rilassante. Vem uma canção, duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Mm-hmm. Mm-hmm. visto l'ora che è una cosa tra di noi. E allora chiarisco la trasmissione di stasera. Da oggi in poi ogni trasmissione di Out of the Shell potrebbe essere l'ultima. L'ultima che va in onda, l'ultima che come insignificante non ha senso di esistere. Per cui nel suo concetto di essere ultima vuole dire quello che pensa. Credo che chi rimane sino a quest'ora ad ascoltare anche, almeno spero, abbia il buon senso di andare a vedere sul post di Out of the Shell quello che è il concetto stesso del concepire durante una giornata che ti concede poco di pensare un modo di essere. Lo dico adesso e non lo dirò mai, una trasmissione radiofonica, quello che è sempre stata Out of the Shell e quello che sino a quando esisterà è Out of the Shell. Questo lo devo a tutti coloro che con me in questi quasi 10 mesi hanno lavorato, ma che ci sono stati e mi hanno stimolato negli ultimi 7 anni. Bene, partiamo da un concetto basilare. C'è stato un giorno che spiegavo cosa era Out of the Shell e l'ho detto con molta sincerità. Purtroppo Out of the Shell esiste perché c'è un sentimento profondo con cui parli, un sentimento che è quello che pensa, che spera che sia l'opportunità che non può viversi, ma che crede che sia necessario in ognuno di noi quando esiste. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Thank you. vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Questo il concetto di non sapere più se ne vale la pena, se vale la pena di pensare a degli ideali, di lottare, di essere presenti, di essere sempre là con tutto ciò che ti massacra, ti distrugge, ti è una lotta che tu continui a fare e dirti il perché non devi andartene, e forse è giusto che te ne vai nell'oblio. Quelle quattro cose che ti puoi permettere nella lotta della vita, quelle quattro cazzate che ti puoi permettere, perché alla fine sei riuscito a costruirti un tuo spazio, o forse andare a ricominciare e lottare e trovare un posto in cui nessuno più ti rompe i coglioni. Bene, da questo momento in poi, se mai più esisterà Out of the Shell, sarà semplicemente questa comunicazione, perché Out of the Shell ha creduto in una lotta, ha creduto in una creatura, ma la creatura non deve essere più Out of the Shell. fondo un coglione con l'avo. Se ti difende il governo c'era il navo, ma non mi capita più. Oh, raga, baci, non va a contare se giusto le piaci. Se fa carendo una fada e la placi, per anire sti Gesù. Avete mai pensato al, alla vostra esistenza? Al tornare a casa e non essere totalmente ubriachi da non ricordare quello che è successo nel... dentro di voi e cercare di invece di essere pienamente coscienti di la della stessa vostra esistenza, di quello che sono gli ideali che avete cercato di rappresentare con coerenza e quella voglia di invece di tornare a casa e invece dover trovarvi a lottare per dire ma ho fatto la scelta giusta oppure dire ma sono io quello che alla fin fine sono il coglione o non sono il coglione. Bene. Ora mi farò strada tra 100 miliardi di stelle, la mia anima le attraverserà e su una di esse vivrà eterno. Sono, dicono, 100 miliardi di galassie, tocco l'infinito con le mani, aggiungo stella a stella, sbucherò da qualche parte, sono sicuro, vivremo per l'eternità. Ma già qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, con un'avventura. E qualcuno che mi scalda il cuore. Ciascuna mi assicura, addormentato o stanco, braccia che mi stringono. Nella reincarnazione, in quel lungo percorso che fa vivere vite in quantità, ma temo sempre l'oblio, la dimenticanza. Giriamo sospesi nel vuoto intorno all'invisibile, e ci sarà pure un motore immobile. E già qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, una speranza, la tenerezza di qualcuno. Tendi sentimenti, non me ne volere, perché sono curioso, bugiardo e infedele. Qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, con un'avventura e qualcuno che mi scalda il cuore. Ci sta una cosa che vorrei dire, al di là del sbattere la testa contro il microfono. C'è una cosa, e al di là dei miei cani che abbaiano e ci entrano tutti quanti dentro il microfono. vorrei dire una cosa rispetto al posto di oggi. Io non so chi sta ascoltando da dove e come ascolta tutto questo momento, però non fate come me, non rinunciate, non credete che qualcosa può esistere. Paese di ciucce. Essendo colpevoli di offesa alla pubblica morale, saranno condannati a vivere il resto dei loro giorni nella Repubblica del Paese dei Ciucci. Sotto terra hanno capito che quando si mangia non si campa ma si mora, hanno capito che quando si mangia non si campa ma si mora, mora, mora, mora, mora. Io non voglio morire, no, io non voglio morire, no, io non voglio morire, no, io non voglio morire, no. Dentro paese di ciucci, i-o, u paese di ciucci, i-o, u paese di ciucci, i-o, u paese di ciucci, i-o, u paese di ciucci. Vivere, no, io non voglio vivere, no, io non voglio vivere, no. Dentro paese di ciucci, io, un paese di ciucci, io, un paese di ciucci, io, un paese di ciucci, io. Thank you. io. Ancora sangue nella striscia di Gaza. Giocare col mondo, facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già. Mia, se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse ne sapremo quello che vuol dire affogar nel sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non vuol morire. Quando guardo il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità. ناديكم أشد على يديكم أبوس الأرض تحت نياركم وأقول أفديكم وأحديكم ذي عيناي ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على يديكم أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافيا. أناديكم أشد على يديكم Thank you. Questo potrebbe essere un addio, o forse no, o forse una volontà a dire che è già dato, ricordatevi. Scritto nell'anima. scritto nell'anima, scritto nell'anima, scritto nell'anima. Occhi che sappiano guardare, mani che sappiano tenere, occhi che vogliano imparare, mani che sappiano tenere. Ricordati di me, ricordati.